Bon, direi che possiamo incominciare. Inizio con alcuni brevi ma sentiti ringraziamenti. Per prima cosa l'immagine che sta sullo schermo. Non è una delle armi che la polizia affermò falsamente di avere trovato dentro la Diaz per giustificare l'irruzione e il successivo massacro. È un'opera di un'artista italiana che vive e lavora a Berlino, Monica Bonvicini. E voglio ringraziare la compagna di Radio Cane che ha segnalato quest'opera e che ha consentito che venisse usata. È un'immagine evocativa su cui si può ragionare parecchio. Il secondo ringraziamento va a Nicola, ovviamente anche a tutti gli altri compagni del Cox e della Calusca che rendono possibile lo svolgimento di iniziative come quelle di stasera. Ma Nicola merita un ringraziamento particolare perché ha estrapolato da lunghi filmati Rai le immagini che servono a illustrare la situazione accaduta in Piazza Kennedy la sera del 20 luglio 2001 e che sarà uno degli argomenti della sera. E ha fatto questo lavoro cominciando alle 2 di notte dopo un'intera giornata passata a curare insieme ad altri, però con un grosso peso anche per lui, la serata in cui si è dato il Ferlinghetti Corner e la finale del Premio Dubito, e poi senza battere il ciglio si è messo a fare quest'altro lavoro. Oltre a questo ha montato la parte conclusiva del film che vedremo, quindi un ringraziamento e un riconoscimento è d'obbligo. La questione del riconoscimento per me è assolutamente centrale. Hegel ha scritto e ha fondato un bel pezzo della sua filosofia intorno alla questione del riconoscimento, la lotta per il riconoscimento, e così facendo ha descritto abbastanza adeguatamente la dinamica dei rapporti dentro le società di dominazione, ma il riconoscimento si può vedere anche in un'altra maniera, lo si può vedere come dono e controdono, e con questo siamo al centro di quella maniera in cui si potrà vivere diversamente e a partire dalla quale si possono anche fare le piccole cose che facciamo già oggi. Il terzo ringraziamento va al compagno e alla compagna che hanno prestato la voce per il commentario al film I Wanna Be Loved By You. In questo lavoro anche la compagna prima citata di Radio Cane ha dato il suo, ha realizzato la registrazione, insomma è stato un processo di collaborazione basato sull'amicizia, su quel tipo di affetto che sta alla base delle cose migliori che riusciamo a fare quando riusciamo a farle. Chiudo qui, però tenevo a dirlo. Due parole sullo svolgimento della serata. Si è pensato di dedicare un ampio spazio a tutte quelle domande, quelle considerazioni, quegli interventi che nell'incontro di sabato, quello con il cortile strapieno e la ressa al portone, sono rimasti tagliati fuori. Il programma quel giorno era blindato, non c'è stato proprio tempo. Stasera invece tempo ne abbiamo, e quindi sia chi era presente sabato può dire ciò che gli è passato per la mente o anche solo ciò che voleva domandare, e sia chi è qui stasera e ha qualcosa che vuole condividere sul piano del ragionamento della parola, potrà farlo. Questa è la prima parte, quindi una parte libera, non strutturata, senza alcuna relazione introduttiva, ma insomma sappiamo di che cosa si sta parlando e ciascuno avrà qualcosa da dire. Quindi basta venire al microfono per necessità di registrazione e streaming e si va avanti così. Successivamente, a seconda dei desideri dei presenti, se non è già stato ascoltato, cioè sostanzialmente se la maggioranza dei presenti stasera non erano all'incontro di sabato, si potrà ascoltare il contributo del Vince, quindi una testimonianza diretta sulle giornate di Genova, e poi si parlerà di quella situazione cui si accenna nella nota introduttiva questa serata, cioè appunto quell'azione ben riuscita e basata su un'intesa repentina ed efficace che merita di essere raccontata e rispetto alla quale si è infine riusciti a recuperare alcune immagini andate in televisione. Infine verrà proposto il film I Wanna Be Loved By You, realizzato subito dopo i fatti di Genova dai compagni di Seregno, integrato da un commentario firmato da questa parte della barricata e datato luglio 2021. Questo è il programma per la serata, molto semplice, quindi possiamo iniziare subito con, come si diceva una volta, il microfono libero. Ringrazio Conchetta per l'opportunità e spero di non essere troppo vecchio, che non sia troppo tardi, sennò chiedo aiuto a Paolo e legge lui. Il motivo per cui voglio fare questo intervento è che all'epoca andai a Genova ed ebbi la fortuna di essere uno dei pochi che maneggiava una macchina fotografica a pellicola, per cui avevo una scusa per non dare il peggio di me in piazza, e che era quello di fare foto. Poi successivamente mi è capitato di fare alcune ricerche, per cui quello che leggerò stasera è un po' un percorso che ci fa capire che il G8 di Genova non è che è arrivato da un giorno all'altro, è caduto dal cielo e è arrivato qua in Italia, ma che c'è stato un percorso che è durato anni, che ha portato a quella enorme manifestazione di piazza. Qua inizia con un nel frattempo, perché nel capitolo prima parla di come in Inghilterra, fine anni 80, primi anni 90, si sviluppa un movimento che si chiama Reclaimed Streets, che significa riprendiamoci le strade, che era un movimento che rivendicava diritto alla casa, diritto a vivere le strade, e poi sarebbe diventato anche diritto alla festa successivamente al 94, quando la legge inglese inizia a vietare i raduni con musica, i rave all'epoca si chiamavano. Quindi poi appunto il Reclaim the Streets diventa un movimento molto grosso, ed aveva anche soprattutto inizialmente nasce anche come movimento ecologista oltre che come movimento di lotta per il diritto alla casa, e quindi si piantavano alberi in mezzo alle strade, si cercava di bloccare i lavori per ampliare le carreggiate e tutto eccetera eccetera. Quindi nel frattempo al Reclaim the Streets nei primi anni 90, il movimento zapatista, venuto alla ribalta un paio di anni prima, organizza nel 96 in Chiapas il primo incontro for humanity and against neoliberalism. L'idea è quella di mettere insieme gruppi di affinità, aggregazioni indipendenti di attivisti formati da una decina di persone autosufficienti e con degli obiettivi comuni per combattere il neoliberismo in difesa dei diritti umani. Il secondo incontro si tiene in Spagna nel 97. Raccoglie circa 3.000 adesioni di attivisti provenienti da 50 paesi, tra cui collettivi di azione diretta britannici come Reclaim the Streets e i Lavori Senza Terra brasiliani. Lavorator sin tierra. A questo punto però la street party antagonista del Reclaim the Streets è diventata già un modello per tutto il mondo. In Italia se ne parla, in Finlandia viene organizzata la prima manifestazione a maggio del 97, poi seguono l'esempio l'Australia, l'Olanda, la Russia, la Germania. È interessante vedere come Reclaim the Streets abbia influenzato l'intero movimento no global internazionale e come sia e come a sua volta la rete di attivisti britannica abbia, inizio ad avere difficoltà, alzato sempre di più il tiro. Come scrive Emory Starr in Global Revolt, A Guide to the Movement Against Globalization, un libro del 2005, il movimento no global non è nato con la rivolta di Seattle e non è morto con l'11 settembre. A chi prima appunto diceva ma che c'entra l'11 settembre col movimento? Ci sono tante persone che dicono questa cosa, infatti poi le persone che qua parlano sono tipo Naomi Klein, Oliver De Marcellus, cioè degli attivisti molto importanti dell'epoca, e dicono questo, ma piuttosto quello che accadde fu che una serie di Global Days of Action, così si chiamavano, produssero nuovi metodi di connessione tra movimenti sociali disparati. Gli eventi presero diverse forme, dal giardinaggio sulle carreggiate a street party a manifestazioni tradizionali, ma tanto quanto era importante il messaggio, fu fondamentale la potenza della connessione a livello di strategia della comunicazione. E l'esperienza potente della solidarietà, queste sono parole sue, si estese alla gente esterna alle organizzazioni militari. Ma cosa sono i Global Day of Action e cosa c'entrano con Reclaim the Streets? Ce lo spiega l'attivista Oliver De Marcellus in un discorso a proposito del terzo incontro che si tenne nel 1998 a Ginevra, quello in cui nacque il comitato People's Global Action. Una scoperta particolarmente significativa per i partecipanti al meeting di Ginevra e altri europei veniva da vicino, l'esempio affascinante di quello strano fenomeno post-Thatcher chiamato Reclaim the Streets, le cui pratiche di street party sarebbero state imitate nel mondo durante i futuri Global Day of Action. Quel fenomeno qui era appunto radicato in Inghilterra. Chiaramente non si vuole sostenere che la rete no global sia stata costruita da raver, perché qua si parla delle street parade, ma far notare che nel primo strutturarsi del movimento il network britannico ebbe un ruolo cruciale. In qualche modo a loro sarebbe toccato la spettacolarizzazione dell'evento, mentre altri attori momentaneamente sullo sfondo avrebbero acquisito rilevanza successivamente. La stessa conferenza del 98 riunì fin troppa gente ed esperienze affascinanti, questo dice Oliver De Marcellus, perché ognuno potesse realmente apprezzarle tutte. Resto ancora stupito quando scorro lo sguardo sulla lista dei partecipanti a quella manifestazione del 98 e mi rendo conto di quante organizzazioni con cui oggi lavoriamo fossero presenti già all'epoca. La svolta avviene quell'anno dopo la riunione di febbraio di cui parla De Marcellus e di quella di Ginevra. Il 15 e 17 maggio 98 si sarebbe infatti tenuto il 24esimo summit del G8, mentre il 18 a Ginevra si sarebbe riunito il WTO, il World Trade Organization. Il network di Reclaim the Streets, che aveva partecipato a febbraio alla prima riunione, preparò una street parade anti-G8 che sarebbe rimasta leggendaria, con striscioni che chiedevano tanto la cancellazione del debito del terzo mondo quanto la cessazione delle ostilità in Palestina. Fu il primo Global Day of Action e parallelamente alla protesta di Birmingham aderirono più di 50 città, dalla California al Canada, dalla Grecia alla Svizzera, dalla Svezia all'Estonia. Fu la prima mobilitazione in così tanti paesi. Ora il Comitato citato People's Global Day of Action, avrebbe condiviso le azioni di protesta contro il WTO. Attaccare il capitalismo mentre il movimento era sulla cresta dell'onda significava annientare la risonanza di questi eventi a tutte le latitudini. L'anno successivo, infatti, il 18 giugno del 99, in quello che verrà ricordato come il J18, la sigla della data avrebbe indicato queste azioni di protesta. Tutte le energie del movimento combatterono in un enorme secondo Global Day of Action. Per l'occasione, Reclaim the Streets cambiò il nome in Carnival Against Capitalism. Per promuovere l'evento, e qua ho quasi finito, girò una newsletter che raggiunse un migliaio di internauti, tra cui ovviamente gli zapatisti. Nel 99 gli internauti erano pochissimi. I soldi furono raccolti organizzando eventi, concerti e rave. Furono affissi 10.000 manifesti, distribuiti 70.000 volantini, spillette, tre tipi diversi di adesivi, 50.000 flyer dorati citavano Raoul Wainwright dicendo: lavorare per la delizia e per l'autentica festa è appena distinguibile dal prepararsi per un'insurrezione. Furono incrementate le misure di sicurezza in tutta la city. I tabloid spargevano il panico. Il Big Issue, giornale gestito da un'associazione per i senza tetto, due settimane prima dell'evento copriva l'evento con un servizio di 5 pagine in cui la foto di copertina ritraeva un businessman che prendeva fuoco. Il Sun, il giorno stesso della mobilitazione, tentò di scoraggiare gli attivisti annunciando precocemente una disfatta. Il 17 e il 18 vennero distribuite 30.000 copie farlocche della popolare giornata londinese Evening Standard dal titolo Evading Standard. Furono stampate anche mappe dettagliate del centro finanziario di Londra con i bersagli sensibili ampiamente descritti, ovvero secondo il programma banche e multinazionali. Secondo il programma al mattino ci si sarebbero state azioni sparse indipendenti, poi a mezzogiorno il meeting point era fissato alla stazione di Liverpool Street e da lì sarebbe partito il carnevale collettivo. In realtà poi quando si arriva lì distribuiscono dei cartellini quadrati di 3 colori diversi e spiegano all'orecchio delle persone che dobbiamo pigliare 3 percorsi diversi, per cui la polizia rimane spiazzata dal fatto che ci sono 3 cortei indipendenti che iniziano a partire verso la city, e quando ci si ritrova lì ci sono tutti gli obiettivi sensibili che tutti conoscono. Questa manifestazione è a giugno del 99 e io poi nel libro dico: io non capisco com'è possibile che in realtà tutti facciano iniziare la manifestazione da Seattle, che è tipo a ottobre, novembre dello stesso anno, quindi qualche mese dopo, con addirittura un sacco di attivisti che poi cito più avanti, che raccontano di come erano stati nella manifestazione a Londra e avevano proprio copiato alcune idee, come quelle della banda di samba brasiliana con i cappelloni che dicono: ah, la Barking Band, facciamola pure noi. Quindi quello che volevo dire è: effettivamente c'è stato questo movimento enorme. Quando è arrivato in Italia, in seno a una realtà controculturale fortissima e radicata, come probabilmente non c'era in altri paesi anche d'Europa, perché i centri sociali erano fortissimi negli anni 90, in realtà quindi si incrocia con tutto questo, e in qualche modo queste grandi manifestazioni, che anche qui iniziano a essere chiamate poi i social forum, no? Genova Social Forum nasce a un certo punto, eccetera eccetera, riuniscono un sacco di gente eterogenea. Quello che vorrei far notare, e poi giuro che ho chiuso perché sono come al solito logorroico, è che l'Italia è un paese che non ha mai fatto conto né con l'aver appeso Mussolini a testa in giù in piazzale Loreto, né con la lotta armata degli anni 70, tantomeno con i black bloc del G8, cioè che tuttora vengono considerati come i demoni. Ah no, ma non erano compagni, quelli erano sbirri infiltrati, ah ma no, cioè nel senso, sì è chiaro, c'erano un sacco di sbirri infiltrati, però quello che voglio dire è che probabilmente io ero un black bloc all'epoca, e meno male che ho avuto quella macchinetta in mano per tanto tempo, grazie. Ho sentito una voce. Dunque, c'era Visconte che si era detto intenzionato a fare un intervento. Ieri c'è stata una discussione in streaming su Genova del Comitato contro la guerra. Se vuole intervenire, come si diceva prima, a titolo personale, può farlo. Sta arrivando. Sì, ieri c'è stata questa riunione, diciamo, online sulla questione di Genova e diciamo il punto fondamentale è stato che quella che viene chiamata democrazia in realtà è, diciamo, la controrivoluzione preventiva con relativa tortura e quello che è successo poi alla Diaz, Bolzaneto, eccetera, eccetera. Cioè, non è stata una sospensione della democrazia, come viene propagandato, perché poi ci sono stati anche dei processi, eccetera, eccetera. Ma in realtà la democrazia è questa, cioè questa forma di controrivoluzione preventiva che era iniziata già qualche mese prima a Napoli, e a Napoli c'era un governo di centrosinistra, il governo Amato, chi se lo ricorda, nel marzo del 2001, è proseguita poi nel luglio, in cui era cambiato il governo, diciamo c'era un governo di centrodestra, come sappiamo, con Fini, Scajola, eccetera, eccetera, ma diciamo la sostanza non è cambiata fra centrosinistra e centrodestra. Quindi è proprio diciamo quella che viene chiamata democrazia, che è invece una forma di non chiamiamola dittatura, insomma una forma di repressione di tutti i movimenti che in qualche modo cercano di mettere in discussione l'ordinamento sociale. Per esempio Scajola, il ministro di allora, c'è stata poi una discussione in Parlamento, aveva comunque ordinato che di usare le armi nel caso i manifestanti avessero violato la famosa zona rossa. Quindi era stato già previsto questo. E poi, vabbè, la zona rossa non fu violata per vari motivi, comunque poi Scajola stesso ha negato questa circostanza, ma di fatto era così. Si è visto con la morte di Carlo Giuliani che, diciamo, c'era licenza di uccidere, questo era diciamo proprio quello che si è visto concretamente. Certo che diciamo, la sommossa è stata molto grande, si parla di 250.000 persone che sono affluite a Genova in quella situazione, cioè numeri molto impressionanti. La controrivoluzione preventiva certo, diciamo, è stata anche efficace, bisogna dire, cioè, non definitivamente, però da allora non si sono più verificati in Italia dei movimenti importanti come in altre parti del mondo invece è stato. Voglio ricordare le primavere arabe nel 2011, le varie rivolte nella Latino America, dalla Colombia al Cile negli ultimi anni, voglio ricordare anche l'anno scorso le rivolte negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd, che hanno visto scendere in campo un nuovo proletariato, cioè che non ha più colore, cioè un proletariato nero, bianco, asiatico, ispanico, composto soprattutto da giovani che diciamo senza differenza di razza in questo punto, quindi mettendo in discussione lo stesso capitalismo razziale americano, è sceso nelle piazze con manifestazioni molto anche incisive e grosse. in Italia non c'è stato qualcosa di paragonabile, tranne forse, ecco, negli ultimi anni i movimenti nella logistica e le lotte, anzi proletarie nella logistica, hanno in qualche modo, diciamo, sono state importanti, comunque condotte da una frazione di questo proletariato multirazziale, composto essenzialmente da emigrati, ma diciamo non è, almeno fino adesso, non c'è stata una rispondenza in altri settori, a meno che adesso con i licenziamenti che ci sono stati alla Gianetti qui in Brianza, alla GKN di Campi Bisenzio vicino Firenze, alla Whirlpool, eccetera eccetera, qualche, penso, movimento dovrebbe sorgere. E niente, io posso dire, diciamo, io sono di una generazione precedente naturalmente a chi mi ha preceduto qui a parlare, e quindi venivo dal 68, dal 77, da questi grandi movimenti storici che avevano visto al centro prima la classe operaia industriale nel famoso autunno caldo, eccetera eccetera, poi il proletariato giovanile nel 76-77. Però quello che dai fatti di Genova io perlomeno personalmente ho sentito è che la situazione era profondamente mutata anche rispetto agli anni 70, cioè era sceso in piazza un nuovo tipo di proletariato giovanile sicuramente, che comunque aveva diciamo diversi motivi di antagonismo con il capitale, e qui prima ne sono state nominate alcune, dall'ecologismo alla antiglobalizzazione. Cioè la globalizzazione cos'era poi in fondo? Una ricerca da parte del capitale di posti dove il costo del lavoro fosse minore. Cioè tante industrie hanno delocalizzato, Milano era una città industriale negli anni 70, adesso non lo è più. Negli anni 80 è diventata Milano da bere, eccetera eccetera, cioè altre sono, diciamo, i servizi sono diventati la forma più comune di occupazione, mentre le grandi fabbriche hanno delocalizzato in Cina, in India o in altri posti. Quindi mentre avveniva questo fenomeno nelle nazioni capitalisticamente sviluppate, a cominciare dagli Stati Uniti, si è formato invece un nuovo proletariato che è precario, cioè forme di precarietà, di lavori sottopagati, cioè sostanzialmente quelli che oggi sono i protagonisti dei movimenti degli ultimi anni. C'è questo nuovo proletariato che non è più quello industriale di fabbrica, ma presenta caratteristiche anche più di contrasto, diciamo, con il capitale. Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi anni. Però le premesse ci sono state, come dicevo, nei vari movimenti degli ultimi anni in varie parti del mondo. E un'ultima annotazione che volevo dire: mentre nel 2001 l'imperialismo cosiddetto si poteva ancora considerare come comandato dagli Stati Uniti, il famoso imperialismo americano che per tutto il Novecento è stato, diciamo, quello che ha avuto una maggiore capacità di comandare un po' su tutto il globo, tranne ovviamente quella che era l'Unione Sovietica, cioè il capitalismo di Stato di allora. nel 2001 ancora si presentava più o meno come questa globalizzazione come diretta da un centro. Ricordo che l'anno prima, nel 2000, era uscito il famoso libro di Michael Hart e Tony Negri intitolato L'Impero, cioè era una forma di impero che quindi quasi fine della storia, a cui poteva opporsi solo una moltitudine, diceva questo libro. Questa visione è stata poi sconfessata subito dopo, neanche due mesi dopo, dall'attentato alle Torri Gemelle, che ha segnato da una parte l'inizio del declino del capitalismo degli Stati Uniti, del capitalismo sia economico, militare no, perché comunque ancora c'è una grande superiorità sul piano militare, però sul piano economico-sociale non è che ormai gli Stati Uniti non è che abbiano grandi prospettive. Sono sorti altri imperialismi locali, vediamo anche la Turchia, per esempio, che adesso nel Mediterraneo fa quello che cerca di imporre militarmente. Insomma, c'è stata una frammentazione di quello che una volta veniva chiamato imperialismo americano, che oggi ha dato origine alla, come dicevamo anche nel centro di documentazione, a una guerra permanente, cioè tutti contro tutti, e ognuno cerca di tirare un po' l'acqua al suo mulino, ma da questo nasce non solo una grande confusione, ma anche una grave crisi che adesso si è manifestata già nel 2008 con la storia dei mutui subprime, la crisi finanziaria, che adesso è stata aggravata dalla crisi pandemica, quindi crisi sanitaria, che ha accelerato i processi di crisi capitalistica. Insomma, le prospettive per il prossimo futuro sono, secondo me, dal punto di vista della rivoluzione, sono buone, se vogliamo dire. Cioè, adesso non voglio dire che ci sarà da oggi al domani, però insomma penso che andremo avanti molto bene. Grazie. Come si dice, un po' di presa bene. Chi altri? Intanto che qualcuno ci pensa, ne approfitto per interloquire brevemente con Tobia e anche con Visconte. Tobia ha giustamente portato l'attenzione su una serie di pratiche che hanno avuto davvero un ruolo importante in quell'insieme molto composito di figure sociali, di attività, di idee, di contatti, rapporti, che poi è stato riassunto nel termine no global. Effettivamente la rivolta zapatista ha avuto un peso grosso allora, credo innanzitutto come anello di una catena di lotte indigene che hanno attraversato nei secoli, nei decenni il Nord America, il Centro e il Sud America. Ha avuto delle ricadute anche in Europa da considerare in maniera articolata, perché la questione zapatista da noi è stata molto spettacolarizzata. E questo ha portato parecchio fuori strada rispetto a quello che era il suo significato storico effettivo. Se pensate che la moglie di Mitterrand era figura importante della trasmissione, della comunicazione della vicenda zapatista in Europa, avete un'idea di quanto lo spettacolo e chi anche all'interno del movimento faceva spettacolo abbia influito sulla maniera in cui quanto facevano in Chiapas gli zapatisti veniva riprodotto, evocato e, per dirla tutta, strumentalizzato qui da noi. Non mi riferisco alla scena inglese che ha recepito e coniugato a suo modo sollecitazioni di questo tipo e che le ha riportate poi, come giustamente diceva Tobia, anche a Seattle. Tobia a un certo punto però ha chiesto perché si fa partire il movimento No Global da Seattle. Effettivamente c'erano stati dei passaggi precedenti, ma c'è un motivo forte, e cioè che a Seattle, nella composizione anche lì estremamente polifonica dell'azione di strada, avviene qualche cosa che non avveniva negli Stati Uniti da 30 anni, e cioè dai giorni della rabbia del 69, degli scontri durissimi di piazza. E siccome vale l'adagio che per farsi sentire vale la pena di incominciare a sfasciare qualcosa, questo è avvenuto e il colpo, il bang, si è sentito in tutto l'Occidente. È stata una cosa grossa, tanto da costringere lo Stato americano a far intervenire la Guardia Nazionale. Certo, c'erano state delle situazioni di estrema tensione e violenza anche prima, c'era stata Los Angeles nel 92, ma a Seattle si era di fronte a una pratica militante politica di movimento, che è qualcosa che insomma, al suo impatto grosso e proprio ha tranciato un lungo periodo di silenzio dei compagni e delle situazioni di lotta negli Stati Uniti e ha poi informato la maniera in cui la questione No Global è stata vista e vissuta da tante persone anche in Europa. Quello che è avvenuto a Genova per un verso richiama sicuramente Seattle, perché Genova segna l'entrata in scena di quello che giornalisticamente sarà definito blocco nero. Però a Genova, diversamente che a Seattle e anche in altri passaggi precedenti, come a Praga ad esempio, le forze che facevano riferimento e che avevano animato il Genova Social Forum spaccano quella possibilità di dialettica interna al movimento, come si dice alla tedesca, per intendersi, e trasformano quella che è stata probabilmente la prima manifestazione contemporanea in Italia, perché è vero, come ha ricordato Visconte, che situazioni di lotta dura anche in piazza, c'erano state almeno da Piazza Statuto in avanti, ma c'è uno specifico, c'è una novità che proprio trasmette all'Italia una modalità di presa della piazza, di movimento attraverso la città, che poi segnerà tutti gli anni successivi in giro per il mondo, Riproporrà in primo piano la questione della sommossa, della rivolta. Questo è lo specifico, secondo me, di Genova. Giustamente Visconti ha ricordato che dal punto di vista dell'azione repressiva Genova è preceduta da Napoli dal marzo 2001. Anche in quel caso la polizia attacca duramente i manifestanti in piazza Municipio senza lasciare vie di fuga, ma non solo, preleva i feriti dagli ospedali, i manifestanti feriti dagli ospedali, li porta nella caserma Raniero e li incomincia a massacrarli. Se a Napoli non c'è stato una prima Bolzaneto, è solo perché nel frattempo prima centinaia e poi migliaia di compagni si sono addensati fuori da questa caserma, hanno cominciato a fare casino e a un certo punto gli sbirri hanno dovuto rilasciare tutti, ma altrimenti sarebbe avvenuto come poi avvenuto a Bolzaneto. E anche nel caso delle violenze, delle umiliazioni, di tutto quello che gli sbirri hanno fatto nella caserma Raniero, il processo si è concluso con un nulla di fatto, con un alto numero di assoluzioni e poi con la prescrizione del reato. Ecco, queste cose vale la pena, secondo me, almeno questa è la maniera in cui la vedo io. Quello che Genova, non tanto e solo per la violenza messa in campo dagli apparati dello Stato, ma per le dinamiche interne di dissociazione ha impedito, è stato uno sviluppo di questa multiformità del movimento, di questa presenza attiva di figure e pratiche diverse. L'ultima cosa che dico è l'11 settembre, perché anche su questo si è interrogato Tobia. Che cosa c'entra l'11 settembre con i No Global? C'entra in quanto di fatto ha tarpato ogni possibilità d'azione successiva. La parola d'ordine a livello mondiale era antiterrorismo, stato d'eccezione, una legislazione che anche in Italia è stata recepita pienamente, al punto che Occupy nel 2011 in qualche modo riprende da dove si erano fermati i No Global nel 2001. I temi sono molto simili. Di mezzo c'è stato quello smottamento sociale, l'effetto sociale anche occupazionale della crisi, che ha tolto molto dell'allure da ceto medio che aveva comunque il movimento No Global. Figure del lavoro autonomo, figure del lavoro precario, licenziati. In Zuccotti Park c'era un sacco di gente che aveva perso il posto di lavoro, cosa che si annunciava a Genova, ma che ha poi impiegato alcuni anni a svilupparsi. Questo per cercare di fissare dei passaggi storici che sono lontani nel tempo, che prolungano i loro effetti fino a oggi. Non ha molto senso ricordare Genova se non nello sforzo di interpretare i vari percorsi che ci hanno portato fino al presente. Bon. Nel frattempo qualcuno ha elaborato qualcosa, se no, se la cosa vi vede D'accordo, ascoltiamo la registrazione del Vince. Ripeto, sempre che non sia stata già ascoltata dai presenti, dovete dirlo voi, per alzata di mano no, perché non si vede niente, ma fate sentire la vostra voce. Andiamo? Ok. Nicola? Come detto brevemente da Mattia Sabato, in questa testimonianza Vince dedica poco spazio alle sue traversie processuali e invece proprio racconta il vissuto personale e politico dello stare in piazza e nelle strade del capoluogo ligure quel giorno. Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Vincenzo. Grazie per avermi invitato alla vostra iniziativa. Allora, premetto col dire che di già non sono un buon oratore, parlare da solo davanti a un microfono, allora... Quindi, scusate, farò un po' confusione, ok? Allora, mi si chiede di parlare di Genova e del G8 2001. Vado a ruota libera e sicuramente dimenticherò qualcosa o qualcuno per strada. Allora, per iniziare bisogna contestualizzare un po', fare un contesto storico. Allora, siamo alla fine degli anni 90, i primi 2000. Nel 99 a Seattle, negli Stati Uniti d'America, durante un summit, World Trade Organization era, se non sbaglio, esplode una rivolta in una giornata che poi passerà alla memoria per la sua intensità e che da lì in poi i media chiameranno il popolo di Seattle. Quindi sto popolo di Seattle nelle strade della città scatena dei riot piuttosto violenti. E quello che salta agli occhi è che durante queste rivolte non sono come al solito i manifestanti ad essere le vittime della polizia con caschi, manganelli e tutto l'armamentario. Al contrario, c'è una determinazione e una tenacia che ci stupisce. Le barricate, gli slogan contro l'economia neoliberista iniziano a comparire sempre più spesso anche nei notiziari e media mainstream, insomma, che parlano di oppositori violenti al summit per l'organizzazione dell'economia mondiale, eccetera, eccetera. Da lì in poi ci susseguono un po' in tutto il mondo occidentale, dei convegni simili, tipo a Praga, Davos, poi ci fu Göteborg. A Göteborg la polizia, tra l'altro, apre il fuoco e colpisce alle spalle un manifestante. E poi a marzo del 2001 a Napoli ci si scontra duramente con la polizia in occasione del Global Forum. Insomma, a quanto pare si crea un po' in quel periodo una specie di binomio, vertice-controvertice, che fissa un po' degli appuntamenti a cui partecipare per dissentire, insomma. Questo diciamo un po' il contesto generale. E poi bisogna contestualizzare invece nello specifico Genova. Genova, l'abbiamo sentito centinaia di volte, ormai fu un laboratorio. Perché fu un laboratorio? Fu un laboratorio perché innanzitutto in occasione del G8 i politici italiani e le aziende italiane anche, hanno la possibilità di usare sto vertice qua come una vetrina per mettere in mostra le capacità della nazione ad essere all'altezza delle grandi potenze geopolitiche internazionali, eccetera, eccetera. Quindi, nei mesi prima del luglio 2001, fu messo in opera una propaganda mediatica che secondo me si può chiaramente definire terroristica. Si annunciava un po' la calata dei barbari sulla penisola, migliaia di black bloc sarebbero sbarcati mettendo a ferro e fuoco la città di Genova, che fu quindi adottata a questa emergenza. Furono aperti dei veri e propri checkpoint in città, il traffico deviato in certe zone, che furono dichiarate rosse, zona rossa. Mi ricordo che il comune di Genova fece saldare i tombini al suolo per impedire ai terroristi di infilarsi sottoterra, sbucati per sbucare armati chissà dove. Si evocò, mi ricordo, la minaccia sempre terrorista, di aerei che avrebbero sganciato sulla popolazione o sulle forze dell'ordine dei palloncini riempiti di sangue infetto. Le autorità sanitarie fecero ordinare agli Stati Uniti 300 body bag, mi ricordo. Body bag sono quei sacchi neri in plastica con la cerniera dove buttano i cadaveri nei film americani, avete presente? E insomma, questo era un po' il clima grottesco, era grottesco più che terrificante, in cui ci si trovò tra di noi a discutere, e non poco, sul fatto di partecipare al controvertice oppure no. Mi ricordo che specialmente in ambiente libertario si criticava fortemente il fatto di andare a Genova perché era visto un po' come adattarsi ai tempi e ai luoghi in cui lottare determinati dalla controparte, insomma. E insomma, una buona fetta di compagni era per disertare l'appuntamento. Poi per entrare un po' di più nello specifico di chi partecipava a queste giornate, io personalmente faccio una distinzione in due parti, per quello che riguarda, diciamo, un po' i soggetti i più combattivi, se mi passate il termine. Da una parte c'è una componente più classica, che poi era identificabile come proveniente dall'autonomia, l'area dell'autonomia, ecco. Questa parte era più o meno strutturata attorno a delle parole d'ordine, degli obiettivi prefissati in anticipo e imposti allo spezzone loro. Grosso spezzone, perché era un sacco di gente. Quindi, insomma, c'è una struttura politica che organizza e decide le modalità e impone un po' di dirigersi verso la zona rossa per penetrare nella zona rossa e disturbare il meeting in corso, insomma. Peraltro, da non scordare assolutamente, i leader di queste fazioni avevano programmato anticipatamente con la questura i luoghi di scontro e le modalità in cui le cose sarebbero dovute andare. Tutto questo archiviato, eh. Tra l'altro avreste dovuto vederli come erano vestiti, erano coperti di gomma piuma, caschi, parastinchi, paragomiti, scudi in plexiglass, insomma, sti qua li mandavano tutti al macello. Boh, dicevo, questa è una componente. L'altra, invece, quella che poi sarà etichettata per sempre come le tute nere, diciamo, è quella componente che con le sue pratiche, i messaggi che fa passare attraverso le sue azioni, che secondo me danno una nuova boccata d'ossigeno alle pratiche di conflittualità. Insomma, la piazza non ha più limiti, straborda, e siccome esce dai limiti soliti usati fino a lì, soprattutto butta per aria i palabri tra le tute bianche, gli sbirri, insomma. In pratica si evita al massimo il contatto con le forze dell'ordine, ci si sparpaglia per la città, si attaccano degli obiettivi che rappresentano in concreto il dominio, la prevaricazione capitalista, in poche parole. Banche, negozi, agenzie interinali che iniziavano tra l'altro a spuntare. Vedete oggi un po' il mercato del lavoro come è evoluto, eh? Quello che è interessante tra l'altro è la maniera in cui l'arredo urbano, l'urbanismo stesso, abbia perso il suo ruolo di organizzatore dello spazio pubblico. Durante la rivolta i vicoli di Genova, le barriere architettoniche, gli edifici stessi, insomma, si trasformano in luoghi e oggetti propizi ad un uso nostro, a un uso pubblico, insomma. Tipo i giorni 18-19 luglio ci furono comizi, sit-in, teatri improvvisati un po' tra i vicoli, le piazze, marciapiedi. E il giorno 20 chiaramente l'arredo urbano diventa un po' l'alleato dell'insorto, insomma. Insomma, la città è vissuta in maniera completamente diversa e stravolta. Poi vabbè, dico che sono pratiche nuove, che poi sono più che altro pratiche ritrovate. Le stesse tecniche erano usate dagli autonomen tedeschi negli anni a cavallo 70, tra gli anni 70 e 80, o i weathermen negli Stati Uniti negli anni 70, eccetera, eccetera. Ho detto prima, prima ho parlato di giornata di insurrezione. Io personalmente penso che il passaggio tra un corteo di molte centinaia di incazzati neri e l'inizio di un'insurrezione è piuttosto sottile, è piuttosto labile, nel senso, sì, perché la città è il suo quadro, i difensori dell'ordine sono in scacco, ma dall'altra parte è enorme, perché insorgenza evoca in me dei comportamenti, diciamo, più o meno organizzati, nel senso pratico, concreto. Per esempio, chi è che sblocca le comunicazioni? Perché tra l'altro il giorno 20 era impossibile servizi dei cellulari, non c'era campo da nessuna parte. Quindi, insomma, chi è che si occupa delle comunicazioni, chi è che blocca i trasporti, vado un po' fino a parossismo, chi è che si occupa della fornitura d'armi, perché quelli mica ridono, quelli sparano, lo sappiamo bene che hanno sparato, e per di più si sentono legittimati a farlo, dalla loro parte hanno quello che chiamano il buon senso. Boh, per ritornare alla manifestazione, questi spezzoni di cui parlavo se la prendevano pure con la polizia, direttamente e indirettamente. Tipo, un commissariato fu preso d'assalto, lancio di oggetti, bottiglie incendiarie, il carcere di Marassi pure col portone in fiamme, i carabinieri se la svignano. Quello che ha scatenato l'ultraviolenza degli sbirri fu veramente atroce, en passant. È il fatto che l'istituzione ha perso il controllo. Alcuni spezzoni hanno fatto indietreggiare più volte i veicoli blindati. Ci sono delle immagini d'archivio che parlano chiaro, l'accelere se la dà a gambe levate. I veicoli fanno marcia indietro l'uno sull'altro, c'è fumo dappertutto. Vero bordello, non erano preparati a subire quello che è successo, e soprattutto che non vengono a dire che ci fu, come dicono spesso, lo zampino dei servizi segreti, no? Com'è la formula, secondo ordini venuti dall'alto, insomma, fecero in modo che la situazione derapasse, no? Perché dicono questo? Perché il messaggio che vogliono far passare è che l'organizzazione sociale, così com'è, capitalista, tiene, è stabile, è forte. E se è messa a nudo o vacilla è perché lo ha deciso ancora lo Stato. Lo Stato deve sempre avere l'ultima parola, insomma. E poi se vogliamo è un gioco che si ripete. C'era sempre qualcuno che alludeva alla pista dei servizi segreti che si mischiavano alle formazioni armate negli anni 70, tutto per non ammettere che le rivoluzioni vengano dal basso, che un proletariato in armi può rovesciare l'esistente, fare la rivoluzione, insomma. Bueno, dico questo non per fare strani amalgami, dico questo per dire che è nell'ordine del possibile mettere in discussione lo status quo in concreto. Quindi, dove eravamo? Per ritornare a quello che dicevo prima sulla violenza assurda che fu scatenata dalla polizia, faccio un po' una considerazione molto personale. È vero che quello che accadde nelle scuole Diaz e l'altra poi cos'era, la caserma di Bolzaneto. È vero che per alcuni è riconducibile a qualcosa di normale, no? Nell'ordine delle cose, quando si parla di polizia, carabinieri, eccetera, eccetera. È vero che non si contano più ormai morti per mano delle forze dell'ordine, per esempio in caso di semplici controlli, eccetera, eccetera. Ma quello che è successo nel 2001 è veramente qualcosa di particolarmente brutto. Le violenze fisiche, le botte, le torture che spuntano ogni tanto nei giornali, lì a Genova sono state attuate in modo sistematico, categorico. E più o meno quello che è più inquietante è alla luce del sole, nel senso che l'istituzione polizia non si è mai preoccupata, polizia, carabinieri, eccetera, eccetera, non si sono mai preoccupati veramente di nascondere di quello che è capace di fare. Il messaggio che ha fatto passare è che di fronte allo Stato i corpi non valgono una cicca, sono umiliati. Non c'è storia, voi bruciate le banche, allora noi vi ammazziamo. Siamo qui per questo e dovete capirlo bene. È evidente che c'è una disproporzione evidente. E secondo me perché hanno veramente capito quello che era in gioco in quelle giornate lì di Genova. Nel senso, tutto il mondo, ripeto, tutto il mondo occidentale aveva gli occhi puntati su Genova per il G8. E nel mondo intero si deve sapere che qui da noi la canaglia non passa. La meschinità della forza bruta, le polizie la attuano su chi generalmente è indifeso o non vuole difendersi o non può farlo, insomma. E l'irruzione in piena notte in una scuola dove si sapeva che c'erano per lo più manifestanti dell'area pacifista, Secondo me, opinione personale, puzza un po' di ritorsione nazista sui villaggi colpevoli da rifugio ai ribelli partigiani, è un po' la politica della terra bruciata. Non è per fare scorciatoie intellettuali, ripeto, non va, ma secondo me bisogna ricordare che dopo la Seconda Guerra Mondiale qui da noi non ci fu un processo di Norimberga per le gerarchie italiane, e il delitto di devastazione e saccheggio, l'articolo 419 del codice penale è un po' la continuazione di certi metodi nelle aule di giustizia. E penso che bisogna fare una digressione sul 419, anche perché, come dice giustamente un compagno che mi ha proposto l'intervento, si parla molto di Genova in questo periodo, ci sono un sacco di pubblicazioni editoriali, fumetti, libri, eccetera, eccetera, su Genova, ma non si parla mai dei processi di Genova. E, come dire, nei processi si continua con un'opera dei mezzi di informazione martellante, nel senso dopo la creazione del nemico si passa all'identificazione del nemico. Le immagini della rivolta vengono mandate ininterrottamente in onda, i giornali parleranno per settimane solo ed esclusivamente del sacco di Genova, una città brutalizzata, vandalizzata, messa a suo quadro dal Black Bloc. E in tribunale pure assistiamo ad un utilizzo stramassiccio delle immagini. Si inizia un iter giudiziario che durerà 10 anni, più o meno, in cui l'immagine sarà il perno centrale su cui si appoggeranno la gran parte dei lavori dell'accusa, insomma. Assieme alle testimonianze dei diversi funzionari di polizia e carabinieri, che saranno tutta più lì a rafforzare quello che le immagini stesse dicono già da sole. Insomma, facevano delle comparizioni piuttosto... Lei vede nelle immagini Mr. X, Miss Y, sì, a lui, buono, no. Non è che facessero prova di essere molto brillanti, insomma. E quindi, si apre con questi processi un modo di operare che basa tutta l'incastellatura processuale su uno zoccolo, lo zoccolo delle apparecchiature tecnologiche, diciamo, in primis telecamere di sorveglianza e fotografie prese all'interno o all'esterno dei cortei, più che altro. Oltre al fatto che gli avvocati non hanno mai potuto avere accesso al 70% del materiale in possesso delle forze dell'ordine. Vuol dire che ci siamo dovuti accontentare del 30%. Non fu mai data un'autorizzazione a nessun avvocato a visionare i restanti tre quarti delle prove nel nostro carico. Quindi il ruolo delle immagini in processo è a dir poco ambiguo. Si può accusare una persona per il fatto che sia ritratta in una certa situazione, in un determinato momento. Insomma, si decontestualizza la realtà in cui ci si muove, la si fissa in un'immagine, in un frame, e la si condanna. Sia tribunalesca che mass mediatica è la condanna, e quindi la condanna va da sé. Boh, questo un po' per la teoria. Per tornare al processo in concreto, oltre al ruolo tecnologico e all'uso repressivo dell'articolo 419, che danno una stura, diciamo, a un modus operandi che da allora non ha fatto che continuare, non ha fatto che continuare ad essere ben presente nella repressione delle lotte, è doveroso ricordare la buona abitudine dei codardi a scaricare le colpe sui più esposti. Questo è un po' un ricordo personale. Mi ricordo come fosse ieri un'udienza in tribunale in cui l'avvocata delle tute bianche indicò me e altre due o tre persone imputate a mio fianco, e che poi tra l'altro si faranno in seguito una buona parte della loro esistenza in gabbio. E insomma, sta qua le indicava come i responsabili delle violenze poliziesche da cui i suoi clienti, per lo più veneti, insomma, era un po' l'area veneta, diciamo, Padova, Vicenza, eccetera, eccetera. E loro si erano dovuti difendere dalle violenze poliziesche scatenate dalle tute nere. Voilà. Neanche tanto implicitamente scagionava i suoi accusando gli altri, insomma. E questo lo dico giusto in termini di trasmissione della memoria, perché è di questo che si parla oggi un po', no? E, bon, dai, per concludere, io penso di aver detto, sono stato magari un po' breve, penso di aver detto più o meno tutto quello che potevo dire su Genova il G8, non so, potrei concludere parlando un po' della mia situazione, ma non penso che sia la sede ideale per parlare di questo. E vabbè, niente, dai, questo era un po' il mio contributo, spero che sia utile per la vostra iniziativa, e vi ringrazio ancora per l'invito, e buona continuazione, ciao a tutti. Se non ci sono altre richieste di intervento, chiamerei qui i compagni per raccontare la situazione di cui si faceva cenno prima, la sera del 20 in Piazza Kennedy. Ecco, a introduzione di questa situazione io ho pensato di usare una citazione di Orwell da omaggio alla Catalogna. E, vabbè, non mi è riuscito poi di recuperare il libro, però grosso modo Orwell dice questo, raccontando dei giorni immediatamente successivi agli scontri del maggio 37 a Barcellona, descrive l'incontro con un funzionario della GPU, la polizia politica staliniana. E così scrive: era la prima volta che incontravo un uomo che per mestiere dice menzogne, a parte i giornalisti intendo. sono stato chiamato qua a parlare del tutto inopinatamente, ma va bene. Una prima cosa che volevo dire, che mi è venuta in mente ascoltando gli interventi precedenti, è questa. Come cazzo possiamo pensare di parlare di rivoluzione in questo modo? Me lo chiedo anche ripensando a quello che è successo in quei momenti. Prima Robertino a un certo punto diceva che a Genova c'è stata la prima manifestazione di una nuova epoca che si è aperta, che in parte è vero, il problema è che non ci sono state tutte quelle altre dopo. Dopo quello che è successo a Genova in quegli anni non è più successo niente. Ci troviamo adesso a riflettere, a pensare su tante cose che io stesso, per quanto mi ci sia sforzato a lungo, non ho ancora capito. Altre invece mi sembrano abbastanza chiare ed evidenti, ma soprattutto io credo che la domanda che non ci stiamo ponendo e che è quella più urgente di tutte non è tanto come la repressione o il controllo preventivo ha utilizzato determinati dispositivi, come ha dispiegato certi apparati, ma quello che dovremmo incominciare a chiederci seriamente è come mai, non noi, che abbiamo in qualche modo già individuato delle ragioni, secondo me, indiscutibili, per cui questo mondo e tutto quello che comporta è da mandare a monte, ma chiunque, chiunque viva in questo tempo, quando passa davanti a una vetrina della banca non abbia voglia di sfondarla e in qualche modo non lo faccia. Cioè capita ogni tanto, in certe occasioni, e come è successo per la prima volta a Genova, da allora in avanti quasi sempre per reagire a delle provocazioni o a dei conflitti che raramente sono stati in qualche modo portati e sentiti da noi. Chiedo scusa per questa breve digressione che ho fatto, ritorno a fare un breve accenno per introdurre il discorso di Genova, ne parlavamo prima, ecco, secondo me anche per legarsi poi all'episodio di cui parleremo più avanti, una cosa che si lega al discorso che stavo facendo prima, che secondo me è molto importante, è che a un certo punto, almeno per quanto riguarda la mia esperienza diretta, per quello che avevo vissuto, c'è stato di colpo un completo rovesciamento di prospettiva, un completo sparigliamento delle carte. Io ero anche perplesso se andare a Genova oppure no, perché c'era stata questa lunga preparazione un po' da tutte le parti, ognuno che lucidava i suoi scudi e affinava i suoi discorsi, quello ecologista, quello globalizzazione, quello dei mercati, il debito pubblico e cazzi e mazzi. Mi sembrava che alla fine rischiasse di andare tutto verso un qualche cosa di già visto, una grande vetrina, una sorta di grande salone dell'antagonismo con qualche irruzione formale, con qualche recita di rifiuto dell'ordine, però così tanto come autorappresentazione. Poi di colpo è cambiato un po' tutto, è cambiato un po' tutto improvvisamente per quello che è successo e per una serie di dinamiche che si sono innescate, che non è neanche semplice andare a leggere, nel senso che ci sono state provocazioni da una parte, forzature dall'altra, riguardando anche recentemente in ordine una serie di filmati, di cronache, eccetera. tante cose sono state pianificate, tante cose sono state provocate, tante altre erano messe nel conto, però tante altre sono accadute. Ecco, secondo me forse la cosa più interessante che ti può rimanere da quello che è successo a Genova è esattamente quello, cioè che non si tratta tanto di preparare in anticipo o ragionare su che cosa si può fare, su che cosa si può, su che cosa non si deve fare, su che cosa ci può aspettare da una parte o dall'altra, ma piuttosto mettere a punto gli strumenti per fare in modo che quando le cose capitano le si sappia fronteggiare in un certo modo, cioè si sappia cogliere in quello che ci capita davanti anche tutti i giorni, non necessariamente a Genova per il G8 o dopodomani per il G9. Quando capitano determinate cose, avere gli strumenti e la lucidità per sapere che certe cose vanno bene, che a certe altre bisogna reagire, che certe altre vanno portate in un'altra direzione. Dal punto di vista del senso del nostro rifiuto della società contemporanea, io credo che non abbiamo veramente più niente da dire da molto tempo. È talmente evidente che siamo succubi di un'organizzazione sociale che è contro il senso stesso dell'umanità, che mi sembra del tutto inutile parlarne. L'idea di insistere su questo discorso per cercare in qualche modo di stimolare, di solleticare un senso di ribellione mi sembra un'attività inutile. Ecco, piuttosto ci sarebbe da chiedersi come mai delle cose che sono così evidenti non suscitino una rabbia che secondo me dovrebbe essere l'effetto immediato per chiunque, non per chi determinate posizioni ha deciso di prenderle e determinate altre di non accettarle. Riguardo all'episodio, al racconto di quello che è successo, cederei la parola. No, di quello l'avrei detto dopo. Dopo averne parlato. Sì, allora dico ancora due cose. L'episodio, che è un episodio in sé un episodio dei tanti che sono successi a Genova, che ci ha visto coinvolti forse quasi direttamente prescritto. Però è stato esattamente quello che in qualche modo secondo me può tracciare questo profilo, cioè ci si è trovati a Piazzale Kennedy in una situazione particolare e in un momento particolare, perché mentre il giorno prima c'era stata la kermesse che io stesso mi aspettavo, che avevo anche ovviamente previsto, con l'aborigeno australiano che faceva le danze per la strada, il giorno dopo di colpo erano partiti scontri molto violenti, c'era stata poi la notizia della morte di Carlo Giuliani, e quindi il clima era completamente cambiato repentinamente, improvvisamente. E lì in Piazzale Kennedy, che era un po' il punto di incontro di tutte le realtà che c'erano, c'era questo senso generale di spiazzamento dove buona parte delle persone presenti in qualche modo rimanevano fanaticamente semplicemente confusamente ancorate a quella che era l'idea che si erano fatte e progettate fino a quel momento, che intendevano continuare a portare avanti, mentre invece altri si rendevano conto che le cose andavano viste e riviste in una certa maniera. In particolare in Piazzale Kennedy, proprio davanti a dove sì. Eh? No, su questo posso andare avanti anche io. Ecco, sì, dai, no, allora vai avanti. No, perché avevo, quello che stavo chiedendo a Filippo era il ragionamento sulla questione, grazie, la considerazione che penso che continui tuttora, comunque in quei tempi c'era, di pensare che se magari i nostri contenuti o le nostre idee fossero arrivate magari anche a una diffusione, diciamo, anche più generale, quella magari dei media ufficiali, magari le nostre idee e i nostri contenuti avrebbero potuto raggiungere più persone, no? Quindi e questa idea che comunque in qualche modo ce l'alberghiamo un po' dentro anche adesso, ma allora insomma comunque era un pochettino più forte, e sicuramente è stato sempre una trappola incredibile, perché anche le pochissime volte che qualche compagno o compagna è stata invitata ad arrivare, insomma, a parlare nelle televisioni pubbliche, allora si dice era così, e naturalmente, come potete ben immaginare, il messaggio veniva completamente stravolto. E questa era un'introduzione al motivo per cui quando noi lì in Piazzale Kennedy, che era poi proprio il concentramento del Genova Social Forum, c'erano tutti i banchetti informativi. Poi erano già successe delle cose la mattina del venerdì, che magari dopo vi dico, ci siamo accorti che stavano montando questo palco e che sarebbe arrivato Gad Lerner per fare a 2 ore, 3 ore dall'uccisione di Carlo Giuliani una trasmissione dal cuore del Genova Social Forum. Abbiamo immediatamente, istintivamente sentito che sarebbe stata una cosa oscena, completamente oscena. Stavamo vivendo un momento tragico, fortissimo, che chi era lì stava vivendo direttamente sul proprio corpo ed emotivamente, e naturalmente si capiva immediatamente che questa sarebbe stata un'operazione di recupero. Cioè, da un lato la televisione, no, che arrivava e quindi si offriva a entrare nel cuore del Social Forum per portare una parola su questa uccisione, quindi apparentemente, no, una disponibilità a parlare anche subito di questa uccisione. In realtà era evidente che diventava un'operazione che avrebbe appunto recuperato quella rabbia, quel dolore fortissimo che stavamo vivendo, e cercare di in qualche modo sicuramente appiattirlo, e con la preoccupazione che, perché il giorno dopo, il sabato, era stata chiamata una manifestazione molto grossa, e quindi probabilmente era fatto per attutire la possibilità che il giorno dopo ci potesse essere una reazione forte all'uccisione di Carlo. Quindi insomma non è che abbiamo tutto questo ragionamento e l'avevamo dentro, però fatto sta che abbiamo visto che era tutto così esposto, c'era proprio questo palco aperto con tutti i fili delle vari collegamenti esposti, ci siamo trovati in 4, 5, 6, non riusciamo neanche a ricordarci bene quanti, e abbiamo detto bah, in realtà è una cosa fattibile, qualcuno si mette qui, qualcuno si mette lì, qualcuno si mette là, in 4 e 4, 8 possiamo farcela. E l'idea è stata la cosa bella, oltre al fatto del senso di non permettere che avvenisse questo abominio di fare una trasmissione sulla morte di Carlo Giuliani a 3 ore dalla sua uccisione lì dentro, ma cos'è che volevo dire? Ho perso un attimo il filo. Che comunque la cosa bella è stata il fatto che immediatamente ci siamo capiti, senza tanti tentennamenti abbiamo messo in pratica quello che avevamo deciso. C'era tutto perfetto, c'era qualcuno che doveva spiegare al pubblico cosa stava succedendo, qualcuno che doveva salire sul palco e togliere il microfono a Gad Lerner, e qualcuno che staccava i fili da dietro. Di questa cosa non si è mai più saputo nulla, cioè nel senso la trasmissione è stata interrotta, adesso vedrete, abbiamo faticato tantissimo, abbiamo passato nottate a Torino a cercare di recuperare i video, perché inizialmente c'era tutto, anche da Blob era stato trasmesso un filmato in cui si vedeva molto di più di quello che era accaduto. Poi nel tempo alcune cose sono state proprio cancellate. Sì, perché la trasmissione è partita. Beh, è partita. È arrivata nel momento in cui doveva prendere il vivo, è stata interrotta. Per cui è una cosa che in qualche modo era anche stata ricevuta da chi era davanti alla televisione in quel momento. Sì, l'avevano visto e quindi l'hanno dovuto nei giorni successivi su Blob però quando abbiamo ricominciato a cercarlo noi, che nel tempo fra trasferimenti, traslochi, così avevamo perso la videocassetta nella quale c'era un po' tutto, comunque con tanti sforzi e poi con il preziosissimo aiuto di Stanley, come ha detto prima Robby, siamo riusciti a montare uno spezzone che dopo vedrete. E comunque io a distanza di 20, questa cosa appunto non è mai uscita, non ha avuto neanche conseguenze, non è che abbiamo subito denunce, evidentemente era anche più grossa di quello che pensavamo noi nel momento che entusiasticamente e con un po' di follia ci siamo messi a fare questa cosa, perché effettivamente l'hanno completamente tacitata. Però poi dicevo che io riguardando questi filmati mi sono accorta, e lo vedrete anche voi, che c'erano delle altre ragazze, delle altre compagne che erano salite sul palco. Quindi probabilmente in quel momento da parecchi era sentito che quella cosa non doveva accadere. Adesso magari ve la lasciamo vedere. L'unica cosa che insomma è stato un momento molto felice, eravamo veramente contentissimi e qualche volta le cose ci riescono anche così nell'immediatezza e nella prontezza di spirito di cogliere un'opportunità che non era poi così semplice, perché infatti vedrete delle scene in cui chi toglie il microfono da Gad Lerner è accerchiato dei disobbedienti, cioè non è che fosse, però siamo stati così veloci, così immediati che abbiamo sorpreso un po' tutti. Va bene. Dai, qua qualcosa che appassiona ogni tanto ci vuole. No, ecco, volevo solo fare un'aggiunta. Anche se alla fine abbiamo fatto così fatica a ritrovare la cosa, ricostruirla anche nella nostra stessa memoria, però comunque è già importante il fatto che la cosa sia riuscita, cioè è già importante che quella cosa non ci sia stata. Ecco, questo vuoto ha già quello il suo senso, perché comunque avere evitato che determinate cose venissero subito nell'immediato lette secondo una direzione, quello secondo me la sua importanza ce l'ha avuta, ed è esattamente quello che dicevo prima quando intendevo dire con le idee chiare sul senso generale poi si capisce che cosa si deve fare, e non è poi tanto importante il fatto che la cosa abbia un suo riconoscimento come episodio, come fatto eclatante. Il fatto che già le cose siano avvenute rispetto sia pure a un segmento molto parziale, ma come abbiamo deciso noi almeno di evitare che andassero, ecco, questa è già una cosa che può avere la sua importanza. Certo, non il singolo episodio, ma in generale come approccio alle cose in genere. Sì, prima vi avevo detto che c'erano stati altri episodi, un altro episodio che a me è rimasto proprio dentro parecchio, cioè la venerdì mattina già c'erano dei movimenti in città e c'era questo gruppo nero che si stava muovendo, no, tanto per dire che cos'era diventato quello spazio del Genova Social Forum. E a un certo punto si vede la polizia che insegue questo gruppo nero e che sta cercando di entrare in piazzale Kennedy, e ci sono due tipe bolognesi, che quindi gli è andata male perché io le conoscevo molto bene, che stavano cercando di chiudere i cancelli per tenerli fuori. Anche lì, cioè, si dimostrava effettivamente quello che qualcuno ha detto anche prima, che quelli cercavano di mantenere, forse tu stesso Filippo, ma cercavano di mantenere un programma che stava completamente saltando già dalla mattina del venerdì, ancora prima dell'uccisione di Carlo, e volevano chiuderli fuori e lasciarli in mano alla polizia, e per fortuna questa cosa è stata impedita, i ragazzi infatti sono entrati, sono scappati da una parte e la polizia non è riuscita a prenderli. Però per dire che insomma era impostato in modo tale, sappiamo, gli accordi erano di un certo tipo, che tutto dovesse andare in una determinata maniera, per fortuna che gli è saltata in mano, insomma, ecco, le cose in quelle giornate sono andate un po' diversamente. Purtroppo il giorno dopo invece quella risposta effettivamente non c'è stata, era una manifestazione veramente colossale, però a quel punto le divisioni erano grossissime e questo piccolo episodio che vi ho raccontato in Piazzale Kennedy sabato si è ripetuto tante volte con il corteo che si interrompeva per far entrare la polizia e per far cacciare fuori quelli che agli altri non piacevano e la risposta, insomma, all'uccisione di Carlo non c'è stata e poi c'è stata la notte. Ah, volevo aggiungere una cosa. Napoli e Genova, due momenti diversi. A Napoli non si sarà trasformata in caserma in una Bolzaneto, ma a Genova è avvenuto dopo la notte stessa, quando ormai tutti se ne erano andati, c'era stato già il pestaggio alla Diaz e non è che a Bolzaneto è potuto succedere perché magari i compagni erano così coglioni che non sono andati davanti alla questura, alla caserma, perché questo va specificato, perché altrimenti sembra che a Napoli i compagni siano stati bravi e a Genova li abbiano lasciati pestare a Bolzaneto. È avvenuta in un altro modo, è avvenuta dopo il pestaggio alla Diaz e quando ormai i manifestanti se ne erano già andati, e quindi non è perché non c'è stata presenza di spirito di andare sotto Bolzaneto. Questo ci tenevo a spiegarlo perché certamente non era nelle tue intenzioni, Roby, però poteva, insomma, sembrare un paragone ingeneroso perché ne ha prese tante là. Che rispetto all'agire dei poteri forti in Italia per quanto riguarda Napoli e Genova, dal mio punto di vista va anche, come si dice in termini di riflessione, come l'ho fatto io per quanto riguarda me, è un po' guardato quello che è stato Seattle, è stato Praga, sono state tutta una serie di situazioni. E quindi che cosa succede? Che questi, siccome era una roba strutturata in termini europei, dove l'Italia in primis, per come è sempre in primis oggi su tutta una serie di altri discorsi per quanto riguarda le guerre in giro, no? E che cosa succede? Che loro, no, a Napoli il quartiere, tutto quel mondo là era chiuso, ma in poche postazioni era chiuso, capito? Poi c'era in giro per la città questi sbirri incazzati a Iosa che massacravano chiunque di botte vedevano un po' vestito in sci, però tutto là era chiuso, c'erano sì le vie di fuga, bla bla, però quelle vie portavano sempre a una via che l'era chiusa, no? E a Napoli, come si dice, siamo stati fortunati noi manifestanti, ma gli è andato in un certo senso di culo anche a loro che non c'è stato il morto. Quindi io quando sono andato a Genova e sono andato con tanti, cioè io dicevo, guagliù, a Genova guardate che questi sparano, no? Cioè, un morto ci sarà sicuramente, e secondo me ce ne sono stati più di uno, no? Non solo il Carlo Giuliani a Genova di morti. Quindi questa è una roba di governo strutturata, no? E quindi per rispondere anche a quello che è stato detto prima, è chiaro, in una situazione come Napoli non è successo questo, in una situazione come Napoli o la Campania o il Sud, no, che sono molto carismatici, no, dal mio punto di vista nell'agire, anche se alcuni votano i piccoli partiti di vicinanza da Rifondazione che c'era allora, altri, però nell'agire, guagliù, a quelli della metropoli, gruppi autonomi, tanto da per come li ho visti io. E quindi là c'è stato questo averve, noi andiamo là, ce la dà la sa, come anche nella metropoli, su altre situazioni che restavano dei compagni, si è sempre andati sotto la questura, ce la dà la sa, se no da qua non ce ne andiamo, no? E quindi sono successe. A Genova è tutto a Genova hanno puntato gli F-16 contro quella regione, non la città. A Genova hanno svuotato carceri limitrofi di altre regioni, a Genova ospedali in altre regioni limitrofe a Genova, ospedali hanno svuotato, hanno precettato chiunque di lavoratori e lavoratrici, hanno addirittura massacrato giornalisti di botte, gli sono portati via le casacche con i tesserini per poter fare quel cazzo che voleva. Quindi era una roba che doveva andare in sci, no? E questo fatto lo conferma anche, se voi vi ricordate, dopo Genova c'è stato Davos. E a Davos, quel ragazzo attaccato alla fune, chi cazzo l'ha tagliata quella cazzo di corda? Il crocifisso degli angeli. Ha tagliato uno sbirro, poi là si è in Svizzera. Però il meccanismo è quello. Cioè, perché vengo a fare questo intervento? Perché dal mio punto di vista quella è stata un'operazione bellica rispetto a quello che è il controllo delle insurrezioni che possono succedere in varie regioni dove c'è ricchezza, non so, di vari minerali, no? E quindi quello è il porsi del potere dal mio punto di vista. E queste robe succederanno. Genova è stato un inizio. E quello che noi altri invece, no? Come tanti presumo che ci hanno in testa cioè, i disobbedienti sono stati come ci sono sempre stati anche negli anni passati, dei marchettari rispetto a quello che sono le rampe di lancio per arrivare a accomodarsi al governo, capito? Ma tanti di quei giovani che giravano in mezzo a loro, tanti di quei giovani che giravano in quei cazzi di comitati di provincia, dei social forum, sono scappati da questa gente dopo Genova, sono scappati. E qua non mi ricordo chi l'ha detto prima, è vero che il potere, no, la repressione, no, soprattutto nelle province, ha continuato, no, a rompere i coglioni a questi ragazzi ed affibbargli varie misure cautelari, mi pare si dice. E quindi noi, sto fatto succederà, e quindi noi dobbiamo cercare di capire realmente, dal mio punto di vista, come sui territori, cioè in termini di fantasia, non di quello che il fattore ideologico, io sono rivoluzionario, già fa chiss, io sono rivoluzionario, ma devo avere le braccia in sci, oltre che le orecchie, per percepire quel cazzo che succede sul territorio e supportare, leviamoci sto cazzo in testa, per quanto mi riguarda, e qua parlo a livello individuale, sto fattore avanguardistico, perché la gente le cose le fa e le hanno fatte anche in questo periodo dove siamo stati tutti rinchiusi, antagonisti, rivoluzionari, chiamiamoci, cioè, gente che voleva ribaltare, cioè tutti chiusi, muti rispetto a sto cazzo di Covid, e la gente comunque, tanta gente a modo loro si è mossa a fare cose, ci sono, e quindi capire, leggere sto cazzi di territori, non leggere solamente i libri, leggere questi territori, viverseli e cercare di interagire, di supportare, e qua possiamo, secondo me, possono venire fuori quelle che sono quelle piccole rivolte, no? Che ce ne saranno fino a stabilire, dice, siamo qua con i piedi per terra, ce ne vogliono di rivolte, no? In maniera tale che nessuno ti riesce a spostare, capito? Perché parli di valori, di difesa dei territori, della terra, che è quella che ti dà realmente da mangiare. Saluto a tutti. Va bene, guardiamo quei tre brevi spezzoni recuperati. Solo una precisazione, io ho evocato quanto accaduto nella caserma Raniero a Napoli, solo per dire che Bolzaneto era già nelle corde della polizia dalla primavera precedente, e soltanto per la dinamica di piazza di quel giorno non si è verificata con la gravità poi che si è vista a Genova. Sono d'accordo assolutamente con quello che ha detto Stefani, non è certo per dare addosso a chi non è andato a Bolzaneto, che oltretutto era molto fuori mano rispetto a come era invece la caserma Raniero, ed è avvenuta nei giorni successivi a cose fatte, ecco. Bon, direi vediamo e poi magari Giorgio e commentano ulteriormente. Vai Vai Nicola. Prego, parlano là dietro. Va bene, per favore. Lei non si è mosso con una cazzo di camera a mano. Prego, signore. A fare questo circo, capito? Per favore. La gente che viene qui, allora, per cortesia, mi prosegua pure. Dichiarazione. Prosegua pure. I morti, il casino, voi fate là. Prosegua, signore. Sono tutti, siamo noi che siamo. Allora, se non ritenete, allora, chiedo ai portavoce del Genoa Social Forum, se ritenete, da qua vai là e parli con noi, non siamo noi a chiederti per cortesia. Prego. È chiaro che questo è un governo di fascisti. Abbiamo cercato in tutti i modi di far sì che le manifestazioni che voi avete organizzato potessero svolgersi. Abbiamo cercato anche, sia pure nella limitatezza delle nostre possibilità, di darvi un minimo di accoglienza. Sono da 4 ore prego, che parlano là dietro. Va bene, per favore. Lei non si è mosso con una cazzo di camera a mano. Prego, sì. A fare questo circo, capito? Per favore. Prosegua pure. Prosegua pure. Morti, il capitone è stato là. Stiamo cercando di fare la possibilità. Allora, se non ritenete, allora, chiedo ai portavoce del Genoa Social Forum, la trasmissione è sospesa. La trasmissione è sospesa. Niente da fare, la trasmissione non può continuare, un peccato. La rete, la 7, Gad Lerner ci hanno provato. Allora, quando siamo partiti con questa idea, il clima generale sembrava che tutti stessero in silenzio e volessero ascoltare, no? Però quando, noi non sapevamo neanche che ci fossero queste due ragazze sul palco. Quando sono salito, mi sono avvicinato a Gad Lerner per togliergli il microfono, subito a partire Caruso del Sud Ribelle, altri tutte bianche vari, così, energumeni vari, che si sono subito buttati su di me, così. Però dall'altra parte, cioè fra la gente che c'era nel pubblico, così, c'è stata anche una certa sollevazione e questi si sono fermati. Cioè, questo cosa ho voluto dire? Che noi non avevamo nessuna garanzia nella riuscita di questa cosa, però il bello è stato anche poi invece che c'è stata una risposta. Il nostro intento era quello che non... perché non so se vi ricordate come funzionavano le trasmissioni di Gad Lerner, già Milano Italia, invitava un po' di politici, un po' di personaggi pubblici così, un po' come fa Bruno Vespa. Lui, a differenza di Vespa, aveva un pubblico con degli interventi programmati già... in precedenza, e faceva parlare un minuto questi del pubblico e poi dovevano commentare e sentenziare quelli dei VIP che erano sul palco. Ecco, noi volevamo impedire prima di tutto questo, e l'altro nostro intento era quello, speravamo che si sviluppasse un dibattito fra i compagni, fra le persone presenti, fra tutti quelli che avevano partecipato a quella giornata, per vedere anche come organizzarsi, come affrontare la giornata successiva. Questo non è pienamente riuscito, però almeno siamo riusciti a bloccare questa sporcaccionata che volevano fare. E poi comunque in qualche modo si sono creati dei capannelli, c'è stata una discussione orizzontale in vari punti del piazzale. E insomma, in qualche modo è stata utile anche per il giorno dopo, perché ad esempio il nostro spezzone, che non era caratterizzato visivamente come disobbediente o black bloc o quant'altro, comunque siamo scesi in piazza il giorno dopo aspettandoci chiaramente un attacco violentissimo da parte della polizia e carabinieri, e però dall'altra parte ci siamo organizzati per difendere il nostro spezzone. E questo ha impedito, ad esempio, quando hanno caricato, agli sbirri di venirci addosso, si sono fermati, perché loro lì colpivano solo quelli indifesi. Chi era un minimamente organizzato non si azzardavano ad andargli addosso. A quel punto ci sono state quelli di Rifondazione dietro, altri di altri gruppi davanti, non so bene chi fosse. Davanti Rifondazione. E anche dietro. Sì, che ci hanno lasciato proprio in pasto agli sbirri, però noi abbiamo tenuto, eravamo un po' attrezzati anche, e a quel punto sono iniziati a piovere i lacrimogeni, perché eravamo tra l'altro sotto la questura che c'è sul lungomare, e poi arrivavano lacrimogeni dagli elicotteri, dalla spiaggia dove c'erano i motoscafi di vari reparti speciali, da terra, ovunque, per mezz'ora c'è stata una pioggia enorme di lacrimogeni, la gente che vomitava, sveniva, insomma. Però anche in quel caso lì siamo riusciti a stare uniti, a non farci prendere dal panico, e nessuno del nostro spezzone è stato preso dagli sbirri, per esempio. Anche questa è un'altra cosa significativa che secondo me va detta. E niente, vabbè, questa era la riflessione che volevo fare io. Va bene, il Kairos una volta tanto. Di nuovo l'invito ai presenti che vogliono dire qualche cosa, altrimenti possiamo passare a guardare il film. Stasera c'è anche Davide, che è uno dei realizzatori dell'opera. Se vuol dire due parole, poi mandiamo la pellicola. Ma proprio due cose, anche perché si è fatta una certa, quindi non la tiriamo troppo in là. E allora, questo video è stato fatto da un gruppo di compagni che frequentava un centro sociale che c'era a Seregno, perché appunto i centri sociali erano forti anche perché erano capillari al punto da essere anche in postacci di provincia, in Brianza, eccetera. E in realtà è un video molto semplice, è stato un tentativo, e credo che la sua importanza sia questa, è stato il primo tentativo di fare attraverso le immagini un po' un racconto con un senso di quello che era accaduto a Genova. Perché? Perché fino a quel momento il video è stato fatto tra la fine di agosto, i primi di settembre era già fatto, tra l'altro abbiamo usato immagini non nostre, prese un po' in giro, un po' da video fatti da compagni, alcune cose addirittura prese dalla televisione, non avevamo telecamere né niente noi, e appunto è stato un primo tentativo di dare un po' un senso a quello che era accaduto. Perché questo? Perché credo si possa spiegare con un aneddoto. Tra i tanti video che avevo visto, adesso non ricordo dopo tutti questi anni dove, come, comunque c'era un video in cui c'era una manifestazione di Genova in cui passava uno spezzone del famoso, lo famoso spezzone del cinema italiano a Genova, c'erano tutti gli, come si dice, i registi eccetera italiani a Genova che volevano riprendere, fare tutta una serie di cose, e c'è uno che gli fa una domanda: perché siete qui? E loro, uno di questi risponde: per raccontare, per far vedere quello che non sarà fatto vedere, cioè quello che verrà censurato. Ora, questa idea, no, che si andava a Genova con telecamere e tutto per fare riprese affinché si bucasse un'eventuale censura di quanto accaduto, e che aveva permeato un po' anche ambienti di movimento, insomma un po' indie media eccetera, aveva questo tipo di approccio, in realtà è stata vera due giorni, nel senso che già il martedì sera, alle 8 di sera nel telegiornale all'epoca TG1 di Mentana, sono esplose le immagini famose del lungomare con la polizia che pestava la gente ferita per terra. Quindi in realtà quello che è accaduto è proprio il contrario, c'è stata una valanga di immagini fatte da registi, da telegiornali, da circuiti indipendenti eccetera, ma che per molto tempo non sono stati strutturati. Anche nei posti di compagni spesso video su Genova erano ore di girato dove si vedevano botte, feriti, casini, ma senza dare un senso. Noi abbiamo provato a fare una cosa molto semplice, proprio perché ci sembrava ovvio che questo limite, questa incapacità, di fronte al fatto che non c'era una vera e propria censura vecchio stile, si era incapaci di dire altro, almeno nell'immediato, e questo favoriva poi quella gestione delle immagini che, diciamo, se tu non eri in grado di dare senso al contesto, favorivi chi invece decontestualizzava immagini per fare una narrazione di un certo tipo. E infatti poi lo spezzone che dimostrava che i famosi Black Bloc giravano indisturbati mentre picchiavano i poveri pacifisti, ecco, tutte queste narrazioni sono quelle che hanno avuto poi la meglio, ma anche perché da questa parte, tra le altre cose, c'è stata una certa fatica a dare un senso. Come ho detto prima, è molto semplice, era una ricostruzione temporale, anche un po' forzata, perché alcune cose non è che sono successe solo il giovedì, solo il venerdì o solo il sabato, però, come dire, abbiamo cercato di fare un po' questo. E anche il titolo, I Wanna Be Loved By You, in qualche modo dà conto di questa idea di tanti cittadini democratici andati lì con l'idea di farsi ascoltare o amare dai capi di governo e dalla polizia, e poi erano un po' sgomenti scoprendo che non funziona così. Questo è stato un po' il lavoro che abbiamo fatto. Desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. With me when I go. And I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You betcha. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes for that picture can't go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all. Alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão se faz um samba. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Põe um pouco de amor numa cadência, pra ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Thank you. que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Sì? Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, ma siamo pochissimi noi qua dentro. Paola, cosa sta succedendo? Mi stanno assaltando. Come sono arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa ci stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando... Guarda, è una situazione indescrivibile e insostenibile. Chi è che vi sta assaltando? La polizia. La polizia? Sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema è l'altra scuola dove ci sono anarchici e squatter e in questo momento li stanno massacrando. Thank you. of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. You've got the look of love, it's on your face, the look the time can't erase. In mine tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Guardando questi filmati senza sonoro, lo spazio e il tempo si dilatano fino ai giorni nostri, portando con sé sia l'ognora presente della rivolta, sia la densità dei cambiamenti storici sopravvenuti. Ai più giovani, molti di quei pretesi leader, di quei gruppi, di quelle bandiere, come anche il nome di vari politici che erano al governo o di quelli che hanno seguito le violenze delle forze dell'ordine dalle sale video della questura, dicono ben poco. Altre cose rimangono più facilmente riconoscibili, in quanto si sono prolungate fino all'oggi su entrambi i lati della barricata. I dispositivi del potere, le forme e i modi della sommossa. Una fra tutte, l'espressione zona rossa, che fa la sua eclatante comparsa mediatica proprio in quel luglio di 20 anni fa, la ritroviamo non a caso nel decreto d'urgenza, con cui nel marzo dell'anno scorso il governo ha istituito il confinamento anti-Covid. E, a un livello più profondo, la volontà dello Stato di togliere dalle strade le molte migliaia di manifestanti che vi si erano affacciati affinché strada non ci tornassero mai più, è continuata con altri mezzi in quest'ultimo anno e mezzo. L'immagine mediatica del Black Bloc serviva, dopo Genova, non solo a dividere i manifestanti buoni da quelli cattivi, ma anche a distillare diffidenza verso il proprio vicino, attraverso la costruzione della figura dell'infiltrato. Oggi la diffidenza, questo veleno dell'impotenza assunta come modo di vita, colpisce l'altro in quanto tale, in quanto essere umano, vista la prossimità, anche etimologica, tra contatto e contagio. Altri paralleli. Alcuni giornalisti e sindacalisti presenti durante la mattanza nella scuola Diaz hanno raccontato di aver pensato, di fronte a una violenza poliziesca tanto brutale e indifferenziata, che in Italia ci fosse stato un colpo di Stato. Non riuscivano a credere che quello fosse il lato notturno della democrazia, né che un governo avrebbe potuto restare in carica dopo tutto quel sangue. E in effetti è probabile che in altri paesi d'Europa il governo sarebbe caduto, sommerso dalle innumerevoli testimonianze e anche immagini nitide di botte, torture e violenze sessuali. Ma non in Italia, dove la democrazia aveva già saputo dare eccellenti prove sul campo lungo il trentennio precedente. Anche in questi ultimi 15 mesi si è urlato alla dittatura e alla violazione più sfacciata della Costituzione. Si può ben dire che la lezione di Genova, le strade, i muri, i pavimenti, i materassi, i termosifoni sporchi di sangue, non è bastata. Ma si deve anche aggiungere che il governo, all'epoca, ha goduto di una certa qual dose di fortuna, o, per dirla in maniera più diretta, ha avuto un culo bestiale. 2 mesi dopo le giornate genovesi, infatti, la rabbia contro la polizia stava crescendo, assieme alla voglia di tornare in strada, e si moltiplicavano le azioni dirette. A cambiare d'improvviso le carte in tavola, a togliere addirittura il tavolo da gioco, sono stati l'11 settembre e la guerra infinita che ne è seguita. Ne è derivata una tetanizzazione delle lotte molto grave e profonda, a dimostrazione che il dominio non avanza in modo lineare, ma grazie a una serie di putsch e allo shock che ne deriva. I bagni e le taverne della democrazia, intanto, sono rimasti ben aperti. Proprio come a Genova i potenti, accompagnati da valletti orchestrali, hanno continuato a banchettare in nome delle libertà democratiche e a farsi fotografare sorridenti, mentre nelle strade i loro scherani in divisa avanzavano battendo marziali i propri scudi con i tonfa, i manganelli allora nuova di zecca. Gasavano con i CS, i lacrimogeni anch'essi nuovi per l'Italia, e rompevano le ossa canticchiando facciata nera. Questa no, non era nuova. Vent'anni fa si è scritto che Genova non è un brutto ricordo, è una miccia accesa e la detonazione è arrivata. Non solo lacrimogeni e maschere antigas sono diventati sempre più frequenti e l'aria sempre più irrespirabile, ma la sommossa è fuoriuscita dallo spazio delimitato e ampiamente teatralizzato dei controvertici e delle ritualità militanti, con i loro ruoli e le loro pantomime. Le aree riformiste disobbedienti non si sono più riprese. Quando il 15 ottobre 2011 hanno provato a lanciare un grande raduno a Roma, il contesto era talmente cambiato che gli scontri non sono stati contro di loro, ma senza di loro. Nella piazza in cui avrebbero voluto piantare le tende, migliaia di rivoltosi piantavano grane. Il Black Bloc, intanto, aveva raggiunto Atene, Londra, Parigi, Berlino, El Cairo, Santiago, Chiomonte, Chianocco, Buenos Aires, Istanbul, Beirut, Tunisi, con tanti buoni che si miscolavano ai cattivi, grosso modo nella misura in cui le notizie dal fronte democratico si facevano pessime per tutti. Dal maggio dell'anno scorso a oggi, le pratiche di esproprio, ancora timide a Genova, sono dilagate negli Stati Uniti, in Cile, dentro lo Stato di Israele e in Colombia. L'assalto al carcere, generosamente tentato a Marassi, in questi 20 anni è riuscito in altre parti del mondo. A Tuluá, Colombia, il 25 maggio scorso i rivoltosi hanno interamente distrutto il Palazzo di Giustizia. Se si dovesse racchiudere Genova 2001 in un'immagine, forse la più adatta sarebbe questa. Un militante del sindacalismo di base che si aggira nervoso tra gruppetti di manifestanti in nero vestiti, che hanno già cominciato a divellere segnali stradali, pali e cubetti di porfido. Invano ripetendo loro «Questa è una piazza tematica! Questa è una piazza tematica!» Il previsto di quelle giornate di luglio era proprio questo. i diversi spazi tematici, ciascuno con i propri contenuti e le proprie rivendicazioni, ad attendere tranquillamente il grande corteo in cui tali piazze sarebbero dovute confluire, in una rappresentazione a beneficio delle telecamere della sempreverde convergenza delle lotte. Poi, la sera, i portavoce da Gad Lerner e tutti gli altri ad ascoltare Manu Chao. Merito non da poco della sommossa genovese e dell'imprevisto che essa ha portato nelle strade è stato senz'altro quello di inceppare il ben oliato erotismo di piazze tematiche, conflitto concordato, spazi assegnati e negoziati dentro i cortei, col suo contorno di rappresentanti, stati generali e piattaforme. Quella terra desolata del militantismo, oggi un po' di foglie verdi, domani un po' di aceto, dopodomani dell'olio, è durata ancora qualche anno, finché non è uscito dai suoi nascondigli, cioè dalle sue individuali battaglie quotidiane, il nuovo mostro proletario. E chiunque non abbia le fette di salame sugli occhi può adesso riconoscerne le fattezze dietro i passamontagna dei rivoltosi di Genova. Vaste schiere di proletari, di uomini di antica o più recente povertà, gli indigeni e la sradicata progenie degli sradicatori, e infine molti babbioni di ceto medio che, nell'assenza di un futuro predeterminato e confortevole, scoprono una insperata possibilità di intelligenza e di apertura all'umano, tutti costoro, nei filmati senza sonoro di Genova, possono oggi rivedere quanto hanno fatto il giorno prima o sognano di fare il giorno dopo. Delle parole non hanno bisogno, che sono le stesse che parlano i loro cuori e bastano gli sguardi. Carlo Giuliani non ha mai avuto così tanti complici, dalle lingue e dalle pelli più variegate. Davvero, valeva la pena che la memoria durasse questi 20 anni. Mentre i tecnocrati e i loro servitori picchiano duro, di una cosa possiamo essere sicuri. Solo chi rimane indifferente e chiuso alla libertà e alla gioia che quelle giornate di luglio contenevano, ad aspettarlo un futuro triste e già scritto. Per gli altri, invece, è possibile ancora fare tante storie e incamminarsi lungo non segnate vie. Direi che possiamo chiuderla qui. Ancora un grazie a tutti quanti hanno contribuito alla serata e a chi vi ha partecipato.